Luciani, posso farti una domanda? Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata, su qualcos'altro che la politica. Parliamo di Parenzo, un'idea di estetica, di cosa, ma anche di figlio, non so io. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Luciani, se tu neghi l'esistenza del maligno, neghi la tua stessa esistenza, caro mio. David, torna a trovarmi stasera. Ti faccio una bella tazza di latte con il limone. La zanzara è come la figa. Quando la conosci, non la lasci più. Eccoci qui ragazzi, 800 24 00 24, numero per chiamarci, WhatsApp 393 71 71 701. Vota Ruggeri. Voglio ricordare, vota Ruggeri. Non dico niente, vota Ruggeri. Tutti quelli che vogliono votare, a me non me ne frega un cazzo, al Festival di Sanremo, vota Ruggeri. Cioè, nel senso che io non voto, non è che sto là, però vota Ruggeri. Un momento, denuncio una falsità in atto. State manomettendo il Festival di Sanremo, grande istituzione peraltro. Quindi è indicazioni, chiudete indicazioni la linea. Fuorvianti state chiudete dando. La linea. Occupate il teatro Ariston, compagni e compagni, Katanga, all'assalto del teatro Ariston. Chiudete grazie. La linea. Abbiamo già parlato ieri del meraviglioso vescovo di Chioggia, no? Che si è schierato con il tabaccaio che uccise il ladro. Il risarcimento è un furto, io una volta mi difesi con un pugno da un ladro. Però sono uscite le motivazioni del giudice, che tra l'altro vive sotto scorta perché minacciato da qualcuno, forse. Il giudice dice: ricordiamo che questo signore, il tabaccaio Birolo, che io appoggio al 100%, ha sparato dopo che questi gli hanno sfondato la vetrina con una specie di ariete, è sceso da casa, il negozio sta sotto, ha preso la pistola e ha sparato a un ladro, secondo il giudice, mentre il ladro scappava. Non c'è stata nessuna aggressione. No, è perché invece l'ariete, che cos'è? Sfondare il negozio dove sopra c'è l'abitazione con una specie di ariete, con una macchina. Che cos'è, secondo... Non è un'aggressione. Ma non è su questo che pazzesco. Si deve discutere. E poi dice il giudice, dopo aver ucciso non si è pentito. Cioè ci vuole anche il pentimento, capito? Secondo il giudice. Per essere assolti ci vuole il pentimento. Pazzesco, beh, pazzesco. No, Sanremo dopo, però c'è ancora una cosa di cronaca che ha dell'incredibile, caro Parenzo, veramente dell'incredibile. Poi dice l'Italia, no? Poi dice come funzionano gli enti pubblici. Per esempio l'ATAC, che dovrebbe essere bombardata, secondo me. L'ATAC, in senso metaforico. Sembra il linguaggio, cioè, per l'ATAC, linguaggio pacifista, sembra di crociare. No, secondo te l'ATAC, linguaggio moderato, cioè, l'azienda dei trasporti di Roma, non dovrebbe essere cancellata e bisogna ripartire da zero, diciamo. Beh, la verità, è un'azienda che ha qualche piccolo problema. L'ATAC di Roma, ragazzi, l'ATAC di Roma, se voi siete andati a Roma e se voi conoscete un minimo Roma, è una roba che bisogna non rivoltare, non basterebbe nemmeno rivoltarla come un calzino, bisogna ricominciare da capo, cioè licenziare tutti, poi si riassumono le persone, cioè si rifanno i colloqui di nuovo, ovviamente ne riassumi. No, ma io mi soffermavo sul linguaggio come al solito, ma dai, no, ragazzi, leggero, ma bisogna essere pesante. Chiari, bisogna essere chiari su questa roba qui. L'ATAC va cancellata e bisogna ripartire da zero. Qualsiasi riforma è impossibile. Ma soprattutto dopo aver letto cose di questo tipo. C'è un signore che credo faccia l'autista all'ATAC. Sì, l'autista all'ATAC, che si chiama Ezio Capri. Per cui io nutro il massimo rispetto, perché vuol dire la furbizia a me alla fine mi attrae un po', no? C'è la paraculaggine, c'è l'arte, quella che è una vera e propria arte. C'è alla Totò. Sì, allora questo tizio praticamente si mette in malattia perché gli fa male lo stomaco, c'ha molto il cagotto, ha la diarrea, capito? Molto bene, capita, molto no? Bene, molto bene. Io, per esempio, vengo lo stesso, anche se ho la febbre, vengo uguale perché sono malato di radio e dunque vengo lo stesso anche con la febbre. Però questo qua invece non va al lavoro perché ha la diarrea. Fin qui tutto bene. Poco Dopodiché, male. Lo stesso giorno in cui dichiara di avere la diarrea, lo stesso identico giorno, si presenta in un night, si presenta in un posto a cantare. Cioè, ci sono i video. Il locale Dante a Zagarolo, 12 aprile 2014. Lascia perdere adesso l'ironia su Zagarolo. Non fare ironia su Zagarolo. No, no, uno può andare a cantare anche. Io in mi una... ricordo Ultimo Tango a Zagarolo, che è un film straordinario. Film straordinario, stupendo. Ultimo Tango a Zagarolo. Chiedo a Bagatta qualche delucidazione su Ultimo Tango a Zagarolo. Meraviglioso, stupendo. Franco e Ciccio, se non ricordo male. Sì, forse sì. Questo canta, il giudice sa cosa dice, ovviamente lo denunciano, eccetera, eccetera, viene pizzicato con questo video. Per il magistrato non c'è stata la truffa, c'è la diarrea che ha colpito questo autista, impedendogli di guidare l'autobus, non è incompatibile con l'attività canora. Ecco. Cioè, attenzione, la partecipazione all'evento canoro è perfettamente compatibile con la malattia. Se canto e sto male, dice questo Capri, al massimo posso far male a me stesso. Se guido e sto male, posso mettere in pericolo gli altri. È tutto finito, ragazzi. Dopo questa roba qui, non è possibile. Se tu stai in malattia, non vai a cantare. Eppure un giudice gli dà ragione. Lui è un genio, ovviamente, no? Perché è un genio. Uno che è totale. Genio assoluto. Lui è il suo avvocato. I giudici sono quelli che sono. Vabbè, ragazzi, andiamo di nuovo a Sanremo, dai. Perché qualcuno sostiene che questa storia dei nastri che qualcuno ha messo, no? I nastri con che era il nastro, quello arcobaleno, no? Sì, sul microfono, certo. Sì, i nastri. Sì, devo dire la verità, io sono a favore, come sai, di tutto, è inutile ripeterlo, no? Ecco, forse però vediamo qual è la polemica. No, adesso. Però devo dire che. Ma no, ma non perché sia la televisione pubblica, però a che serve? A che serve mettere il nastro arcobaleno sui microfoni? Per dimostrare che cosa? Per dire cosa? Che ci vuole questa legge? Che bisogna dare i diritti agli omosessuali? Ma che vuol dire? Perché questa ostentazione di questa... C'è una legge in discussione? Che cazzo c'entra Sanremo col mettere il nastro? Io non parlo di Elton John. Elton John può dire quello che vuole. Figuriamoci se voglio censurare Elton John, che peraltro non ha detto nulla. Ha detto sono contento, sono felice di essere padre. Tu, diciamo, gasparriano. No. Cioè, dici che è subdolo, che il servizio pubblico... Non è subdolo. Non dico niente del servizio pubblico. Dico che chi decide di mettere questa cosa, decide di fare questa cosa... È un esibizionista, cioè punto e basta. Esibizionista. È una forma di esibizionista, come facciamo noi, un pensiero e una tendenza, fallo, no? Fallo su Instagram, fallo su Facebook, hai la possibilità. Sul palco di Sanremo mettere questa roba qua. Certo, milioni di spettatori, il 40% di share, naturale, meno male che l'hanno fatto, Ma sì, ma lo trovo una cosa di... Ma cosa vuol dire? Lo fai in un posto che guardano tutti, no? Non una roba di nicchia, ma mi sembra evidente. Vuoi sentire Federica della Lega? Poi c'è un altro leghista oggi in ballo. Guarda, posso dirti una cosa? Non c'è bisogno ogni giorno di sentire un leghista. No, non c'è bisogno. Oggi è mercoledì, siamo nel mezzo della settimana. Perché? Perché a una persona in macchina che ha avuto una giornata di lavoro faticosissima e sta tornando a casa, devi far sentire Federica. Per quale motivo, Federica? Fagli sentire Galimberti, fagli sentire Cacciari, Bernardo Henri Lévy, ad esempio. Federica, no? Invece... Fagli sentire, che so, una vecchia intervista di Gore Vidal. Fagli sentire, un editoriale di Roberto Napoletano. Vuoi ammazzare sta trasmissione? Fagli sentire un editoriale di Roberto Napoletano. Vuoi ammazzare una trasmissione? Fagli sentire Alberto Napolitano. Ma non fagli sentire Fedriga, Fedriga della Lega, con tutto il rispetto. Fedriga, cosa, poi cosa ha detto di così? Guardate, Fedriga, ha detto che merita l'apertura delle 18.44 di questa trasmissione. No, ha detto che... cosa, quelle parole scolpite nella roccia di Fedriga, cos'è che merita? Ha detto, Fedriga, sì, è alle vero. 18.44 è vero, in apertura di trasmissione, Fedriga. Vabbè, che ha detto? Sentiamo. No, no, perché sono curioso di sentire che cosa ha detto Fedriga della Lega. Sentiamo, non ho fatto altro cazzo tutto il giorno, dalla mattina alle 7 che mi sono svegliato, il bambino, il latte, il biberon, poi il dentista, scrascia, il biberon, Fedriga alle 18.40, che cosa avrai detto mai di così rivoluzionario e determinante, Fedriga? Ha detto che ci vogliono i nastri rosa e azzurri per i diritti dei bambini invece dei Sentiamolo, era fondamentale, Fedriga, fermate le rotative al sole 24 ore, parla Fedriga! A me sarebbe piaciuto vedere qualcuno che magari si ricordi, invece di mettere il nastro arcobaleno, di mettere magari un nastro, uno azzurro e uno rosa, per parlare anche dei diritti di bambini, di avere un papà e una mamma. Perché dei diritti di bambini, ovvero quelli che non parlano e non votano, nessuno se ne ricorda mai. Ma il diritto è avere un papà e una mamma, non avere un figlio, che non è un diritto. Hai capito? Ma falla risentire ancora, perché è determinante questa cosa sui diritti dei bambini. Invece ti faccio sentire una cosa, Galimberti, il tomato Galimberti, che contro la Gardini, credo che fosse di ieri questo, sì, sì, dice che il pubblico di Sanremo è come quello di Padre Pio. Ottimo, ottimo. Cose scadenti ragione, dell'esistenza. Professore. No, sì, su sì, questo professore. Non ha ragione, dai. Col professore. Su questo non ha ragione, dai, sul pubblico grande di Sanremo scadente. Professore. Anche tu dici che il pubblico di Sanremo è scadente. Beh, c'ero anch'io tra quelli. E allora sì. Che cazzo dici? No, dai. Mi considero scadente anch'io, quindi. Ha un pubblico più o meno che coincide con quelli che seguono Padre Pio, nel senso che sono quei fenomeni di massa sulle cose scadenti dell'esistenza, e va bene, questo è Sanremo. Beh, mettere Padre Pio tra le cose scadenti dell'esistenza è proprio di cattivo gusto, direi. Beh, non mi dirà mica che le manifestazioni intorno a una salma sono espressioni di fede, la fede è una cosa seria. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Allora, detto con tutto il rispetto delle autorità civili, politiche e militari, io voglio capire una cosa, perché sono stato molto attento a questa lettura dei problemi del traffico sulle strade italiane, caro Parenzo. Però mi sono state indicate alcune località, le 18.45 in diretta nazionale, qui alla Zanzara. Problemi di viabilità, Nocera Scalo, Nocera Scalo, se non ho sentito male. E un altro... tra Scillato e Tremonzelli sulla A19 Palermo Catania, una roba che volevo sfasciare il computer qua davanti. Vabbè, se c'è traffico, rallentamenti tra Scillato e Tremonzelli. Scillato e Tremonzelli, tagliatemi questa roba, rallentamenti tra Scillato e Tremonzelli. Ora mi deve chiamare uno, un cazzo di persona mi deve chiamare che è in coda tra Scillato e tre fottutissimi Monzelli. Tre Monzelli sulla A19 Palermo Catania. Uno mi deve chiamare, vi prego, uno. Ne voglio uno che mi dica: sì, effettivamente ero lì e questa notizia mi ha cambiato la giornata, mi ha fatto cambiare strada, mi ha dato sicurezza. Scillato e tre Monzelli. Si è detto con tutto il rispetto di chi fa il traffico, per carità, però Scillato e tre Monzelli, divento pazzo io. A19, dimmi più o meno una cosa generica, se non c'è un cazzo non dire niente. Altro che il traffico, qua si serve sapere del traffico di stupefacenti, che non si trova più l'erba buena, l'erba buena. Questo è un drogato che ci ha chiamato. Ma come, ma ti chiedi perché? Vabbè ragazzi, ho esagerato sul traffico, però me la sentivo, Scillato e Tremonzelli è troppo. Però oggi c'è qualcun altro che ha esagerato, non sono io che... Cioè, poi uno dice esagerano, poi ti trovi di fronte a certe dichiarazioni e dici no, quello che faccio io e quello che dico io è sempre troppo poco. È sempre Parenzo troppo poco. Ti assicuro. No. È sempre troppo poco. Allora, c'è un signore della Lega Nord in Liguria, che si chiama, credo, De Paoli, no? De Paoli, un consigliere regionale, il quale, di fronte ad alcune famiglie, associazioni di famiglie di figli omosessuali, io non credevo esistessero associazioni che sì, radunano sì, beh, figli no, omosessuali. Cioè di famiglie, cioè, sì, che condividono. Vabbè, in Italia si fanno associazioni percorsi, su qualsiasi cose, cosa. Facciamo un'associazione di amici dei tecnici della radio. Cioè di amici del traffico. Magari esiste. Che ne so, qualcosa del genere. Perché beh, questa è un po' più seria però. Sì, per carità. Allora, il quale ha detto chiaramente: se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno. Il signor De Paoli, Regione Liguria, Lega Nord. Lega Nord non occorreva neanche che tu lo dicessi. Cosa? Beh, se leggi il contenuto di quel che ha detto, Lega Nord non occorre neanche allora, dirlo, di fronte ad alcune è evidente persone, che è della Lega. Allora, sì. Di fronte ad alcune persone avrebbe detto questa frase qua: se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno. Consigliere, lui smentisce dicendo: no, io ho detto non li metterei nel forno. Noi abbiamo chiesto innanzitutto conferma a una tizia che si chiama Stefania Gori, l'abbiamo sentita pochi istanti fa. Stefania Gori, che è il rappresentante, che era lì presente. Sentiamo. Pronto? Signora Gori, buonasera, qui Radio 24. Buonasera Radio 24, buonasera. Salve, sono Cruciani, buonasera. Buonasera. Senta, allora io vorrei capire, mi dice esattamente la frase, perché il consigliere De Paoli ha smentito dicendo che lui non ha detto se avessi un figlio gay lo brucierei nel forno, ma ha detto esattamente il contrario, non lo metterei nel forno. Va bene, cioè, giustamente lui si difende come può, cioè, è logico che smentisce, è logico. Allora guardi, la frase che ha detto è stata quella, io ribadisco il concetto e sì. non ho nessun interesse a dire quello che non è vero. Quindi lui ha detto dalla domanda di mio marito che gli è stata fatta dicendo ma se lei avesse un figlio omosessuale cosa farebbe? Lui ha risposto lo metterei in una caldaia, va bene, una caldaia nel fuoco, teoricamente, giusto? Una caldaia o un forno? Allora, una caldaia? Un forno, va bene, un forno, caldaia è relativo, perché poi il discorso lo brucerei in teoria. Cioè, la frase bella è stata quella, lo metterei a bruciare in un forno. Questa era la frase. Che poi sia la caldaia, che sia il forno, ma il concetto è sempre quello. Beh, però dal punto di vista semantico è diverso avere sentito caldaia o forno. Comunque va bene. Allora, mettiamo caldaia. Mettiamo non sarà un problema di combustibili, no? Appunto. È il concetto che conta. Parenzo, com'è l'agenzia che è uscita adesso? No, dice non ho mai pronunciato quella frase, semmai ho detto eventualmente non lo metterei in un forno. Cioè, no, come allora dire... lui ha detto che lui lo metterebbe a bruciare in una caldaia. Ecco, la frase giusta ora che mi è venuto, che in questo momento ho avuto un lapso, è questa: lo metterei a bruciare in una caldaia. Lui dice ho detto non lo brucio, è un grande polverone sul niente. Come troppo allora, spesso avviene, logico. Se io avessi un figlio gay non lo brucerei nel forno. Questo è, questo è quello che dice lui, eh? Certo, poi, certo, quello che dice lui, quello che dico no, io. No, ma lungi da me difendere sta gente, anzi. No, ma io le sto ribadendo quello che ho sentito, quello che noi abbiamo sentito, perché comunque non ero da sola, eravamo io, mio marito, un altro genitore e un altro ragazzo e un'altra ragazza. Quindi non sono io sola che ho le trabecole che sento male. Sì, ecco. Certo. Quindi, ma secondo lei, si deve dimettere? Io questo non sta a decidere, noi domani ci convocheremo, sentiremo, vedremo. Voi chi, ancora scusi? No, questo è stato quello che è stato stamattina. Ma noi chi? La frase incresciosa che lui ha detto. Purtroppo io ribadisco solo il mio concetto da cittadina, sì. Che nel terzo millennio vengano fatte queste affermazioni non c'è è grave. Dubbio. È non grave, c'è dubbio, non perché c'è dubbio. Ci sono stati veramente ragazzi, bambini, stati buttati veramente nei forni e questo purtroppo è grave. Mi sto immaginando la situazione, cioè, lo ha detto così tranquillamente come se nulla fosse. No, convinto di quello che diceva, convinto, come se nulla fosse, cioè come la naturalezza, proprio naturale, cioè una cosa che lui sente probabilmente. Mm. Probabilmente lui sente quello, emana quello, per carità di Dio. Senta, lei ha un figlio omosessuale, signora? Io sono un figlio omosessuale, ma a prescindere dal figlio omosessuale. No, mica una malattia. Ma ci mancherebbe, guardi, parla con una che malattia proprio non l'ha mai considerata. Anzi, è quel signore lì che reputa che siano malati. E non lo sono. Va bene, grazie signora, grazie. Grazie a voi ragazzi. Arrivederci, grazie, arrivederci. Arrivederci. Vabbè, adesso vai a capire che cosa ha detto esattamente, che parole ha usato, però la persona che ha sentito quelle frasi conferma nonostante la smentita del consigliere della Lega Nord. Massimo da Roma, vai, 800240024, Massimo. Buonasera Cruciani. Dimmi. Allora, due speranze, qui non vogliamo speranze, vogliamo battaglia, non speranze. No, le speranze ce l'ho io, che non mi chiudi la linea come l'ultima volta e che cerchi di capire quello che dico. Sì. Allora, la legittima difesa è quando difendi te stesso, non i tuoi beni. Non è vero, benissimo. Non è così. Benissimo. Cioè, poi là si va a interpretazioni, come al solito. La legittima difesa è quando tu difendi te, non il tuo bene. Ok? Anche il tuo bene. Ma anche se tu difendi il tuo bene. Ha fatto male a sparare il tabaccaio? Assolutamente sì. Cioè, adesso hai deciso che il tabaccaio ha fatto male a sparare. Fermo Massimo, io non ti voglio fermare, perché mi interessa la tua opinione, la tua posizione, però abbiamo il giornale radio e ti chiamiamo subito dopo. Però dovete cominciare prima, almeno alle 6, perché io fino alle 6:30 mi rompo i coglioni. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. La Zanzara. Trovo a Rabat, dopo 21 anni d'Italia sono in un bar in Marocco a bere un caffè ed ascoltare la Zanzara. Rabat, capito Parenzo? Rabat. Mi emozionano queste cose, gente che ti segue da Rabat e tu disprezzi ogni tanto questa gente che segue da tutto il mondo. Ha chiamato un ascoltatore leghista incazzato con te. Sì, bene. Beh, molto incazzato con te, sì, devo molto dire, bene. Anche ha ragione, perché dice non è che siamo tutti come quel De Paoli, quel consigliere regionale che ha detto che metterebbe un figlio gay nel forno o nella caldaia. La testimonianza che abbiamo raccolto da parte della signora di questa associazione di famiglie che hanno i figli omosessuali dice: nella caldaia brucerei mio figlio, nella caldaia, se fosse gay. Lui smentisce, Crozza numero uno, sentite, su Milano Sala. Adesso il quadro delle candidature a Milano è un po' più chiaro, Giova. A quanto pare si scontreranno Stefano Parisi per il centrodestra e Giuseppe Sala per il Partito Comunista Cinese. Grande Sala. Ragazzi, comunque uno può fare tutte le ironie del mondo. Certo, è una follia che la gente si sia presentata lì al seggio dei cinesi che non sapevano che cosa fare, dovevano essere aiutati, aiutati a votare, erano tutti là per votare Sala, però era una piccola percentuale alla fine che non ha contato. La cosa più incredibile è come la sinistra del Partito Democratico si sia praticamente suicidata con due candidati invece di uno solo, perché altrimenti avrebbero vinto. E allora forse Gattacicova? Forse qualcuno ha ottenuto dei posti? Se Sala dovesse vincere, punto interrogativo. Sì, vabbè, ma le primarie sono primarie. Ma siamo nati ieri, amico mio. Non siamo nati ieri. Vabbè, ma questo chi se ne frega, vedremo. Crozza, Passera chi? Chi è Passera, Parenzo? Passera è l'ex ministro, il banchiere, l'ex banchiere. Dov'è che è candidato adesso, Passera? A Milano, credo, no? A Milano. Passera, tu hai mai sentito una candidatura di Passera? Ah sì, si è candidata a Milano. Sì, come? Ma non se lo fila nessuno. Parisi è un manager di destra che si presenta con la destra. Sala è un manager di destra che si presenta con la sinistra. Passera è un manager di destra che si presenta continuamente a tutti perché non lo caga nessuno. Piacere, sono Passera. Piacere, Passera. Piacere, Passera. Piacere, Passera. Ah, non l'avevo nemmeno sentita questa. Dice la stessa cosa che dico io, sostanzialmente. È vero, però, Cioè si presenteranno a Milano, infatti per questo ci sarà una candidatura molto probabilmente di sinistra che romperà i coglioni a Sala. Si candideranno un ex manager che ha lavorato soprattutto con la Moratti, no? Comunque con un'amministrazione di centrodestra, e poi con l'ex voluto principalmente dal centrodestra, come signor Sala. Parisi, che è comunque un manager di ambito e di area centrodestra, e giustamente si corre per il centrodestra. E Passera, che era nel governo Monti, cose incredibili, guarda. Crozza su Grillo, fantastico, 150.000 euro. Scusate, ma Grillo non era tornato a fare il comico? Ma che vita fa? Un po' fa decaloghi, un po' fa monologhi. Una cosa è certa, 150.000 euro a botta guadagna molto di più con quelli che escono dal partito che con quelli che entrano in teatro. No, questa è buona, però lo sai che un sacco di gente che ho sentito, grillini, sì, e non, al di là della questione della, di questa roba qui che non è possibile poi applicarla nel concreto, cioè nessuno darà mai 150.000 euro perché in tribunale, se la cosa dovesse arrivare in tribunale, non ci sarà mai un giudice, credo, che dica sì, bene, tu hai sbagliato, dai 150.000 euro a Casaleggio o a Grillo. Però molti sono d'accordo, perché dicono i deputati che poi vanno via da un partito. Sì, anche Dario Fo, visto che è, sì, d'accordo, si devono dimettere. Addirittura Belpietro dice, hanno fatto bene perché è una specie di minaccia. Se tu vai via, noi ti facciamo causa. Cioè, se tu entri in Parlamento con un partito e poi tradisci e te ne vai, o ti dimetti o ti facciamo causa e ci dai pure i soldi, sì, vabbè, perché, certo, hai tradito gli elettori. Dire, no, dico che è una cosa molto popolare. Cioè, noi che siamo anche un po' snob, andiamo a vedere, sì, ma non è applicabile. Non prendiamo in considerazione questo aspetto. Cioè, che Grillo e Casaleggio dicono una cosa che è molto popolare. Un sacco di gente dice, no, ma sono degli stronzi perché quelli entrano in Parlamento con i 5 Stelle, ma poi se ne vanno. Ma il fatto che una cosa sia popolare non è detto che sia giusta. Però è anche... anche il fascismo era popolare. Vabbè, ma adesso che c'entra? Dai, sono due cose diverse. Ma dai, non è che le questioni delle... è popolare, lo ha no, detto, no, ma è popolare popolo, nel senso anche tra... anche... sì, trova consensi. Hai sentito Dario Fo? Belpietro è d'accordo, cioè non è solamente no, vabbè, il macellaio che vota, e che con tutto rispetto al macellaio, bravissimo, il macellaio magari non è d'accordo, infatti. Ah, adesso ti faccio ascoltare una signora e poi gli ascoltatori, perché sono lì che friggono moltissimi sulla questione del tabaccaio, eccetera eccetera. La signora Amalia Signorelli, beh, amico grande mio, sociologa, bravissima, grande sociologa, dice la famiglia monogamica non è naturale. La signora Signorelli: questo è uno dei pozzi di ignoranza dell'Italia. La famiglia, non, la famiglia monogamica, nucleare, madre, padre, figli, non è naturale. Cioè, il marito con molte mogli, e si chiama poliginia. Ma, udite udite, non lo sa nessuno, ci sono casi etnograficamente studiati di donna con molti mariti, ed è un sistema eccellente di controllo delle nascite. Poi a proposito sistema eccellente di controllo delle nascite, poi parla anche della questione dell'utero in affitto e dice c'è stata la ragazza madre. Ma no, senti che è molto interessante. Numero uno, la signorella: per centinaia di secoli c'è stata una figura sociale messa ai margini che si chiamava la ragazza madre o la madre nubile. La strega. No, che strega? Non la, veniva... la puttana. No, la strega, ecco. La ragazza di facili costumi. Volevo dirlo, ma mi era un po'... Va bene ragazzi, dove andiamo? Comunque ti segnalo prima di andare che il tweet più bello durante, sì, Sanremo ieri sera, sì, forse l'avrai visto, l'ha fatto il signor Pierluigi Battista, nostro amico Battista, del Corriere della Sera. Battista. Pierluigi Battista, il Battista, quale scrive mentre canta Elton John, a, sì, Gaspà, sti froci cantano bene però, stupendo. Che poi non ha cantato nemmeno benissimo, se proprio bisogna... Eccolo, arriva lui. No, ma ho letto molte cose, cioè Elton John ha cantato meglio altre volte. Massimo da Roma, vai, eravamo a con Gaspar, Massimo prima, dai. Sti froci cantano, sì, bene però. Massimo, vai. Allora, stavamo dicendo, sì, che tu puoi difendere la, devi difendere la, puoi difendere la tua incolumità. Sì. Ok? No, per me puoi difendere tutto, il negozio, la famiglia, quando entrano e si avvicinano dentro casa tua. È già previsto dalla legge. Ma insomma, benissimo, sì, sì, quando benissimo, si avvicinano hai il diritto di fare quello che vuoi, sparare a mitraglia, sparare anche a mitraglia. Ok. Beh, quello che posso, penso io. Quando posso me lo dici. Dimmi. T'ho detto l'altra volta che ci sono dei ragazzini che mi vengono a rubare l'uva. Sparo? Adesso non mi dico, ma a parte che sì, se vengono continuamente a rubarti l'uva, entrano dentro casa tua, puoi anche sparare, secondo beh, me. Beh, non puoi ma sparare, c'è un non po' puoi, purtroppo non puoi. No, ma no, perché no, l'uva, il valore vigna, dell'uva è inferiore mia. A quello della vita, nella ragazzi. Quello sa mia. Benissimo che va a rubare l'uva, non deve nella andare a rubare l'uva, punto e basta. Vengono dei ragazzini. Certo, ti mettono in difficoltà. E rubano l'uva. Certo. Se tu avessi benissimo. Un'arma, secondo me potresti sparare tranquillamente. Dovresti benissimo. Mettere un bel cartello, chi entra qui a rubarmi l'uva io sparo. Molto semplice, democratico, civile, la ma civiltà. Sì, ma illegale, come no? Ma che? Illegale. Ma la lascia perdere quello che è previsto adesso, purtroppo. Io sto dicendo nel mio mondo ideale, tu metti dei bei cartelli, chi entra dentro la mia vigna, chi vuole rubare la mia uva, si prende le pistolettate. E questo qua deve essere consentito, secondo me, della legge. E secondo me ci si arriverà pure. Vedrai che vincerò sulla base io. Del fatto che la vita vale un grappolo d'uva. Ma non c'entra niente la vita, lascia perdere la vita. Qui c'è la no, proprietà no, privata, vale come la vita. Ammazzare. In chi altri spara, paesi, purtroppo non in Italia, purtroppo la proprietà spara, privata vale come la vita. La vita spara, vale un grappolo d'uva. Ma non c'è, questa dicendo. È una cosa ti finta, falsa. Di quello che dici? Sì, lo dico. La proprietà, lascia perdere il grappolo d'uva. Chiaramente, se tu mi prendi come esempio il grappolo d'uva, il grappolo d'uva è ridicolo, la mia no? proprietà. La proprietà, io sono quello. La proprietà io sono quello. Vale come una vita io umana in altri paesi. In altri paesi la vita umana e la proprietà molto incivili, è non la so stessa. Quali sono, ma sono non mi sembra incivili. Proprio, guarda, non mi sembra proprio che sono incivili. Sono assolutamente incivili. Vabbè, secondo te sono incivili, perché, secondo me no. Perché ti sto dicendo sì. che ma mi rubano pure le mele, Cioè, ti rubano le mele, bene, ma se ruba, te piace così, ma se te piace così, se ti piace farti rubare le mele, no, però ti farti dicendo. Rubare nei campi, farti fottere quello che hai, ma scusami, fai pure, pensavo fai che pure, fai pure, non c'è problema, fai pure. Pensavo ci facessi, ma mi pare che ci sei, Io non lascia perdere quello che è previsto dalle leggi adesso, che è anche controverso, e come hai visto nel caso del tabaccaio di Padova si può fare di tutto, si può decidere una cosa, perché nel caso di Sicignano, che pure ha sparato, pare, sul pianerotto, hanno deciso in un modo, adesso questo qua gli sfondano il negozio, scende da casa, sì. spara, uccide sì. e lo condannano pure al risarcimento. Siamo alla follia. Ma siamo alla follia. Prevede la legge. Ma questo è l'interpretazione del giudice, è una cosa diversa. Ciao Massimo. No, questa è l'interpretazione. Nazareno da Milano. Ciao Massimo. Nazareno. Come il patto del Nazareno. Beh, come Nazareno, più importante il Nazareno. Cioè, no, come il patto del Nazareno. Buonasera. Alza la voce, Nazareno, se no non ti sentiamo. Complimenti per l'altra questione. Sì, vabbè, non me ne frega nulla, vai. Senta, io vorrei parlare con Parenzo, in quanto vorrei chiedergli come mai ce l'ha con i fascisti. No, come mai ce l'ha con i fascisti? Beh, non è solo avercela con i fascisti. Sai, caro Nazareno, è una domanda un po' banale la tua. Perché avercela con i fascisti? Semmai bisognerebbe spiegare il contrario. Perché tollerare i fascisti in un paese come il nostro? No, Nazareno, però ti sentiamo poco, hai la voce molto bassa. Lo so, però dobbiamo dare la linea, non so, c'è l'ennesima interruzione, ci sentiamo dopo. E che cos'è? È che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali. State ascoltando un programma offerto da... Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. La Zanzara. Parenzo, mi hai chiamato per farti riparare la lavatrice e sono venuto a riparartela. Adesso ti sto provando a chiamare per farmi pagare e non rispondi al telefono. Insomma, sono costretto a chiamare qua, a mandarti il messaggio alla Zanzara. Vedo un pochetto di darmi sti soldi. Ciao. Ma Parenzo, che è sta storia della lavatrice? Ma no, tu ridi, cioè. No, rido perché veramente le cazzate hanno le gambe corte. Ma quali gambe corte? Ma paga questo signore che è impossibile che un signore rivendichi da me il pagamento per un lavoro non fatto, perché io ho cambiato la lavatrice un paio di settimane fa. E lo vedi, quindi... però c'è qualcosa. Hai cambiato una lavatrice? Sì, cambiata, ma non ho mai chiesto a nessuno di ripararla, perché il valore sarebbe stato inferiore a comprarne una nuova. Bah. Comunque, indagheremo. Questo vale come quello che indagheremo. Ti chiama e che ti dice: ciao Giuseppe, hai dimenticato la sciarpa. È uguale. Siamo veramente ormai alla millanteria, ai pizzini, alle polpette avvelenate. Capito? Questo ormai è il clima. Questo è il clima ormai, Questo è il clima. Allora, per mezzogiorno, cioè per una mezza giornata, si è discusso di una cosa surreale, caro Parenzo. Cioè, tra ieri sera in realtà e oggi verso le 3-4 sì. di pomeriggio, della candidatura di Rita Dalla sì, Chiesa. Esatto, e volevo porre anch'io questo tema. Dico Rita Dalla sì. Chiesa, con questo... tutto il rispetto, naturalmente, per la persona, la conduttrice televisiva. Non fare lo snob però adesso, No, però amico mio, no. Cioè, secondo te è normale che il centrodestra a Roma, dico a Roma, candidi o abbia avuto in mente di candidare la signora Rita Dalla Chiesa, che detto con tutto rispetto è una bravissima signora, una bravissima presentatrice, ha fatto forum. Di normale, amico mio, in questo paese c'è, come dimostriamo noi ogni ma giorno, ma io mi sarei molto divertito poco. Come un pazzo, sarei stato molto contento, ma mi metto nei panni degli elettori, di quelli che restano, che dice ma noi abbiamo... Come dire, abbiamo un sacco di gente da poter candidare, per carità, abbiamo, è vero, avuto Alemanno a Roma, per carità, però la signora Rita Dalla Chiesa a governare Roma, le buche di Roma, tra l'altro una che ha detto che gli piaceva Renzi, in un'intervista credo oggi al Corriere. Ecco, questo più che altro cioè, è strano, ha detto, questa è la cosa strana. Ultimamente mi è piaciuto Renzi, una cosa incredibile, dai, incredibile. Poi a un certo punto oggi qualcuno, dopo credo un colloquio con Berlusconi, non so nemmeno se ci sia stato, lei stessa ha detto non mi sento all'altezza. E te credo, cioè ti credo. Beh, grazie alla Meloni per aver pensato a me. Io però non ho deciso, non credo di essere all'altezza, sono una persona assolutamente normale, con la politica non ho mai avuto molto a che fare, posso dire che sono nel panico. Cioè nel panico, non sono all'altezza, cioè ma come gli viene in mente in un colloquio in un bar, sì, pare, prendendo un gelato? No, ma lo dice lei oggi in un'intervista al Corriere. Cioè dice parlavamo al bar davanti a un gelato, vabbè, lei, appunto, e la Meloni è. Ha detto perché non ti candidi? Cioè ma così? Cioè così si fa? Ma dai ragazzi, è veramente una follia questa roba qua, una follia totale. Comunque, chiusa la questione, chiusa. Allora andiamo a... No, eravamo con Nazareno. Nazareno però alza un po' il tono della voce, non ho capito che cosa contesti a Parenzo. Sì, ecco, una premessa. Ecco, io ieri sera ho sentito che... offendeva in un modo molto aspro quel fascista che quel nazista sì è corretto offendeva, fascista e anche nazista ed, sì il nazista certo sì, va, sì. Va benissimo, ecco, io per carità, però ecco, a me questa cosa qua mi era assistito perché mi faceva sentire quelle persone che giravano negli anni 50 e 60 che dicevano che per ammazzare un fascista non era un no reato. Guardi, è un po' diverso, amico mio. Comunque, no, hanno fatto ribrezzo le mie parole e non quelle del nazista che rivendicava di esserlo, beh allora c'è qualche problema, però, caro signor vabbè, Nazareno, siccome la sentiamo poco storia. Arrivederci Davide da Torino, dai Davide. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Volevo intervenire sul discorso della penale dei 150.000 euro, la proposta che hanno fatto Ghirlini. Sì. È inutile che fate gli snob, ve la ridete, tanto non si può fare perché è davanti a un giudice. Questa è assolutamente una cosa sacrosanta che dovrebbe essere introdotta da tutte le forze politiche, perché se c'è un candidato che viene eletto nelle file dei 5 Stelle... Sì. In cui si porta avanti una determinata ideologia e viene eletto con quella ideologia, non può poi quando gli pare piace cambiare casacca, dire no, tanto io non sono d'accordo. Se non sei d'accordo ti dimetti, te ne vai a casa. Sì, Davide, io sono anche d'accordo con te che prima o poi bisognerà porre fine a questa storia delle migrazioni tra i parlamentari che si candidano. Basta cambiare un articolo della Costituzione. Sì, che si candidano in un partito. Può darsi che si debba intervenire così, che si candidino in un partito e poi cambiano casacca, le migrazioni. No, basta togliere quell'articolo del senza vincolo di mandato. Togli allora, quello e decade immediatamente. Davide, fine. Bisogna pure fare delle cose che poi abbiano un senso, no? Cioè, questa roba ma qui. Ma chi è che può, scusa, garantire, a mettere a garanzia 150.000 euro? Cioè qual è il candidato grillino? Magari non... Davide lo sa, Davide. Che cosa? Cioè com'è possibile applicare questa cosa? Cioè, lascia perdere il fatto che può essere logico incazzarsi se uno dei 5 Stelle va nel Partito Democratico dopo che è stato eletto con un altro programma, come dici tu. Io sono anche d'accordo con te. Però come superare questa cosa qui? Non è che minacciando una persona di portarla in tribunale, mi sembra un po'... Magari funziona, non lo so. Io su questo non te lo so dire, però a questo punto anziché la multa, la penale di 150.000 euro dovrebbero imporre le dimissioni. Ma sì, ma le dimissioni non le puoi imporre, perché ci vuole, dice Parenzo, bisogna cambiare giustamente la Costituzione, perché uno non, cioè, le dimissioni devono essere accettate dal Parlamento, bisogna cambiare le carte, cioè bisogna cambiare un sacco di roba. Io sono anche d'accordo nel cambiarlo. Beh, cioè... purtroppo il fatto, signori, è sempre che comunque la politica o chi sta ai vertici non segue quello che è il sentiment della gente. Ma questo può essere, la gente non ne può più di cambiamenti di partiti, di gente che si presenta con un partito, sì, e poi avere un altro partito. Però non so se li rivota, gli stessi non so se li rivota, perché poi assurdo. Sai, io sentivo stamattina sempre a Radio 24 che adesso Panis, quei parlamentari che sono stati condannati, ai quali è stato sospeso il vitalizio, sì, in realtà hanno fatto ricorso, sì, e sì, stamattina Panis diceva che adesso probabilmente questo ricorso lo vinceranno e quindi questo vitalizio gli verrà restituito. Quindi sì, una parte del vitalizio, sì. Guarda, qui c'è gente che ha fatto ricorso ed è stata riabilitata, e abbiamo pagato pure gli arretrati dei vitalizi, un ex deputato, certo, per cui siamo messi così, purtroppo. Per cui figuriamoci, i cambi di casacca sono poca roba rispetto a questo. Non cambia mai nulla. Va bene, Benedetto Padova, mai. Benedetto da Padova, vai. Buonasera, buonasera. Dimmi. Io volevo dire che se avessi un figlio, sì, che dimostra tendenze sodomite... Aspetta, Benedetto, però cerca di parlare bene, non in viva voce, ti prego, Benedetto, ti prego. Non sto, cosa vuol dire parlare in viva voce? Scusa, cioè, sto parlando al telefono. Sì, non al mi telefono, sentite? Senza auricolare, senza viva voce, dai, forza. Vabbè, non ce l'ho l'auricolare, sto parlando con il telefonino appoggiato all'orecchia. Bene. Comunque, spero che mi sentiate. Volevo dire che se avessi un figlio che dimostra tendenze sodomite, sì, io evidentemente non lo metterei nel forno. Però mi augurerei che, sì, lui avesse un'esperienza omosessuale con Parenzo, in modo che si renda conto quanto rivoltante è un sesso fatto in questo questa signore maniera. È Benedetto da Padova, si chiama, sì, vero? Sì, sono io, sempre il solito. Sì. Non mi pare Benedetto dal signore. L'ammiratore di Parenzo. Maledetto da Padova si chiama, ho capito, va bene. Allora, Benedetto, non ho capito, cioè, se tuo figlio fosse sodomita, cioè tu intendi per sodomita un gay, evidentemente, no? Sì. Beh, certamente il nome giusto è sodomita. No, ma non è giusto sodomita. Come Sodoma, cioè quella città dove il buon Dio, nella sua infinita bontà, fece cadere, sì, una pioggia di fuoco. Scusami, Benedetto. Lei di cosa si occupa nella vita normale, diciamo, oltre a telefonare alla Zanzara? Io sono un dirigente d'impresa. Un dirigente d'impresa, questo ti fa capire che perché impresa? Le imprese sono in questo stato di salute nel nostro paese, ma non importa. Perché? Perché? Perché? Ma questo, perché? Questo lo faccio nel privato della mia vita, evidentemente. Sì, ma sodomita, lei pure nell'azienda, però... Nell'azienda io sono un uomo completamente diverso. Beh, ma quando telefono a voi o quando mi ritaglio dei momenti miei personali, sì, mi piace anche fare ragionamenti di questo tipo. Sì, ma non ho capito. Ma esprimono la mia natura, esprimono i miei sentimenti. Sì, certo, per carità, quello è normale. Che non niente hanno a che vedere con la mia funzione professionale. Beh, insomma, quello bisogna vedere. Per esempio, che ne so, lei ha dipendenti sodomiti? No. No, che ne sa lei? Ma non lo so, ma non mi pare, insomma, non mi pare. Osservarli, e vorrebbe avere ad osservarli. Nell'azienda c'è qualcuno che dimostra questa propensione, ma evidentemente io non posso dirlo, insomma, posso ma dire le farebbe pia- che le farebbe... qualcuno esprime questa propensione. Le farebbe piacere? Io non lo so. Le farebbe piacere avere dipendenti omosessuali? Beh, questo non dipende dalla loro tendenza omosessuale, dipende dal rendimento che danno all'impresa. Quindi se danno un rendimento all'impresa va benissimo, se non lo danno non va bene che siano omo o che siano etero, evidentemente. Vabbè, Benedetto, comunque la sodomia è un termine che caratterizza alcuni atti sessuali. Ora, lei, sì, sarà stato sodomita anche lei qualche volta o no? O non ha mai praticato, no, questa attività? Mai? No, no, mai. No, mi sento lei assolutamente è incuriosito. Lei è sposato? Non... Sì. Con sua moglie non ha praticato la sodomia? No. Mai? No. Mazza, ma che avete fatto nella vita? Cioè, ma come l'avete passata sta vita? Quanti anni ha? Insomma, abbia pazienza. Nessuno dice che io non l'abbia praticata con qualcun'altra. Ah, donna. Okay. Ah, donna, sì, donna, certo. Cioè con chi? Prostitute? No, beh, insomma, questo qui... Donne precedenti? Non glielo dico, donne precedenti di matrimonio, che cosa? Non glielo dico. Non me lo vuole dire. Insomma, il rivoltante, allora, del sesso anale fatto, sì, con un uomo... Insomma, non ha bisogno di essere spiegato. Allora, secondo lei, cioè, la sodomia tra eterosessuale va bene, la sodomia omosessuale nisba. Esatto, più esatto, o meno. Esatto, beh, esatto. Maledetto, esatto, da Padova, mi pare. Se lei avesse abbia... un figlio sodomita, si augurerebbe... Mi augurerei che abbia una esperienza omosessuale con, sì, Parenzo, in modo che si renda conto quanto è rivoltante questa roba. Perché quanto è rivoltante una checca. quanto è rivoltante una checca, posto che Parenzo sia checca. Ma comunque, al di là di questo, benedetto o maledetto da Padova, perché proprio Parenzo? È questo che mi incuriosisce. Perché è l'espressione più, come dire, è l'espressione più, come dire, marcata, più, come dire? Più chiara, più evidente, più significativa del checchismo nazionale. Per dimostrare quanto è rivoltante il sesso fatto con un uomo. Mettercelo nel di dietro fra uomini, insomma, io penso che lo sarebbe facile, sarebbe semplice, sarebbe possibile per questo mio figlio, eventualmente con tendenza sodomita, con sodomite, essere, come dire, trattenuto, come dire, dallo sviluppare questa omosessualità andando con Parenzo, come dire? Se avesse un'esperienza con Parenzo, perché di peggio credo non ci sia. Già è brutta con un uomo qualsiasi, immaginiamoci con Parenzo. Va bene, ciao Benedetto. Cioè, ciao. Lei ha aspettato molto per fare sta chiamata, immagino. No, ma è eccezionale. No, il modo di parlare di Benedetto / maledetto è eccezionale. Cioè, è deciso, preciso. Poi sul contenuto dubbi, si potrebbe discutere, ma non è questo. Senza dubbi, il contesto, senza nessuna incertezza, tranne quella su con chi ha fatto sesso anale nella sua vita. Comunque, andiamo avanti. Ah, caro David, 800 24 00 24, che vita dura. 393 71 71 701 per i vostri messaggi WhatsApp. Siamo nella giornata in cui qualcuno sostiene che la Parietti forse si sposa con Christopher Lambert. Sì, ho letto. E soprattutto dice a Capri, pare. Pare a Capri. E soprattutto dice la Parietti, e qui ci vorrebbe una sonora risata per la mia amica Alba: voglio stare lontana dai riflettori. Cioè, nello stesso momento in cui praticamente annuncia un futuro matrimonio, possibile matrimonio a maggio a Capri, con terra, un signore non totalmente sconosciuto. No, terra lontana di solito dai riflettori, Capri. Cioè, non è proprio un posto, no? Un posto riservato, notoriamente riservato. Nello stesso momento in cui praticamente annuncia questo futuro matrimonio a maggio, dice anche: per il momento voglio stare lontana dai riflettori. Cosa pazzesca, dai, pazzesca. Abbiamo con noi il mitologico deputato di Scelta Civica, per quello che resta di Scelta Civica, grande difensore di tutte le cause cosiddette perse in varie trasmissioni televisive, Parenzo, tuo amico, ma lo conosco pure io, Gianfranco Librandi. Buonasera, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Buonasera. Come andiamo, Librandi? Bene, visto che non sono suo amico, benissimo. No. Librandi è forse... No. È forse più impopolare di me per le tesi che sostiene. Forse alcune cose. Anche amico mio, io lo conosco. È vagamente più impopolare di me. Sì, usare il cervello in Italia è una cosa complicata. Siamo rimasti lei ed io, e poi c'è invece il nostro amico Cruciani che scatena il populismo. No, perché a lui piace titillare la tigre. Ma no. A Cruciani piace, passatevi questa immagine delle 19:49, titillare le palle del leone. Esatto, cioè, bravo. Ecco. Allora, l'immagine perché è questa qua, c'è le palle, un leone, leone, le palle di un leone. Perché tu c'è un leone in gabbia, quindi uno che telefona, uno di questi ascoltatori, no? Che parte, che già è un leone, quindi parte già così. Tu vai lì e gli titilli le palle, diciamo, questa è l'immagine. No, ma io di te. Do voce all'Italia. Titilli. All'Italia, titilli. Quella parenziana, quella librandiana e anche quella ovviamente leghista, quella del raziocinio, quello della testa e anche quella della pancia. E non è detto che quella della pancia, dell'istinto, della reazione sia la peggiore Italia. Non è meglio solo la vostra Italia. No, questo ma io non ho mai detto che la mia. La vostra mai Italia... detto questa cosa. Beh, Librandi ogni tanto lo pensa, secondo me. Per esempio pensa che la campagna scatenata dalla Lega nella vicenda del tabaccaio Birolo in provincia di Padova, Birolo è il cognome del tabaccaio, sia una cosa indecente che abbia portato alla scorta data al magistrato, no? Beh, certo, questo è il no? Ma io penso che dovremmo cercare di sconfiggere la malavita usando la testa, il cervello e non i fucili e le pistole, perché io credo che gli italiani, quando la sera un marito, un padre italiano deve uscire per motivi di lavoro e deve lasciare la sua famiglia a casa, non deve lasciargli una pistola o un fucile, deve lasciare la casa protetta in modo tale che la famiglia sia nelle condizioni di stare anche da sola, capisci? Cioè, e di difendersi dai lati. È sbagliato? E dato che la tecnologia ci permette di fare queste cose, allora io non capisco perché io devo perdere il tempo ad aprire un armadio o prendere il fucile quando posso chiamare le forze dell'ordine, che sono quelle, le faccio l'esempio, quello di Gabbio, no? Il signor Gabbio che abbiamo... con cui ho parlato, se lui invece di Gabbio, chi è Gabbio? Birolo? No, il signor Gabbio, che mi pare che si chiama così, quello dell'altro Pieve di Sacco, no? Quel signore di Pieve di Sacco, l'altro che ha sparato a quella persona che poi è morta. Se invece di intervenire lui avesse fatto intervenire forse loro, che erano a 3 minuti, magari i complici di quella persona, che di quei delinquenti erano stati catturati. No, però scusami, Librandi, andiamo sul fatto più recente, perché sono uscite le motivazioni della sentenza che ha condannato a quasi 3 anni Birolo e a 350.000 euro, anzi forse di più di risarcimento. Mi sembra che sentenza è chiara, no? Giusto? No, la sentenza dice che lui ha sparato mentre quello scappava, che non doveva scendere da casa. Non doveva scendere da casa armato e che poi anche non si è mai pentito. Questo dice più o meno la sentenza. Ora, io dico una cosa, caro Librandi: non è che uno, se sta a casa e gli sfondano la vetrina del negozio, secondo te che cosa deve fare? Deve rimanere a casa senza fare nulla? No, c'è una legge molto chiara che uno, se gli entrano in casa, può sparare, può difendersi, se non è eccesso di legittima difesa. Bravo. Però se uno spara intanto che uno sta scappando, che in più non è neanche armato, ripeto, invece di sparare, prendeva in mano il telefono, chiamava le forze dell'ordine e si liberava da un problema che adesso avrà per tutta la vita. No, però scusami, ma come si fa? Questa è la logica. Ma come si fa a ragionare? Ma non è che Librandi ti ha detto una cosa col foglio? Ma detto com'è, come stanno? Ma se entrano dentro... o l'intelligenza. Noi dobbiamo debellare questo fenomeno della delinquenza con l'intelligenza. Sì, però scusami Gianfranco, ma non si possono dire cose del genere, è una follia. Ha detto una cosa ragionevole, in teoria bisogna chiamare la polizia, ma i carabinieri. Ha detto che se uno sta scappando, lo insegui. Ma ascolta, fai un esperimento. Tu adesso prendi il più vicino posto di polizia rispetto alla casa di quel signore, fai una telefonata, vedi in questi ma che ne sai questi che vogliono fare? Hanno sfondato con una specie di ariete quella vetrina del negozio. Che ne sai che volevano fare? Volevano questi qua? Volevano rubare i pacchetti di sigarette. E che ne sai che non volevano stuprare la moglie o entrare pure dentro casa, che bastava una scala per farlo? Bastava una rampa di scale. Io insisto, perché a casa mia ho subito queste cose e quindi io sono uno che ha subito dei furti. Io chiamo le forze dell'ordine e cerco di convincere i cittadini a fare come me e a proteggere la propria casa. E dunque è giusta la galera, è giusto condannarlo al carcere, a 3 anni di carcere questo signore? Assolutamente non è giusto, perché è una persona, per me, per il mio punto di vista, mettere in galera una persona ce ne vuole, no? Privarlo della libertà. Questo però ha ammazzato qualcuno. Questo è il primo grado di giudizio. Vai fino in fondo col ragionamento. Se tu dici che hai sbagliato ammazzare una persona perché in ballo c'erano solamente dei pacchetti di sigaretta. Il giudice ha detto che questo imputato si deve pentire, deve fare delle cose, magari il giudice può trovare negli altri casi. Se tu dici che hai sbagliato e hai ammazzato una persona, allora devi essere coerente fino in fondo e dire che questa persona merita il carcere. Ascolta, senti una cosa, io capisco che tu sei molto abile a farmi dire delle cose che fanno effetto, però io ti dico che la legge non si deve violare. Io sono uno che fa politica e non voglio scaricare addosso ai cittadini i problemi che hanno i politici. Questo della delinquenza è un grande problema. Io sono stato rapinato a casa mia 20 anni fa, quando non c'erano gli immigrati, non c'era altra gente, quindi questo problema c'è sempre stato. Allora si tratta di reagire. Questo o qua con le pistole. Sono entrati dentro casa sua sfondando una porta, è sceso da casa. L'ho visto, il filmato l'ho visto, è hanno sceso sfondato con la macchina, lui è sceso da casa, era sopra, quindi non era... Invece secondo te doveva rimanere a casa? Doveva rimanere a casa? Secondo me lui doveva prendere il cellulare, il telefono, e chiamare la polizia. E chiamare immediatamente la polizia. Se vuoi facciamo un esperimento chiamandolo. Ha preso la pistola perché era armato. Perché tu sei un leghista, tu risolvi problemi. Ma no, ma uno che si arma, che si arma fa? Ma che c'entra leghismo? Bravo, sbranala, bravo, sbranala. Ma cosa, scusa, ma che c'entra? All'attacco, Librandi. All'attacco. 3 bambini morti nell'ultimo mese perché c'erano le pistole in casa. Ma che c'entra l'America? Tu vuoi usare le pistole o l'intelligenza? Io voglio usare le pistole, voglio che la mia proprietà, voglio difendere la mia proprietà anche con le pistole. Certo. Se la proprietà è uguale alla vita umana. In America è uguale. Io vorrei un paese che mette sullo stesso piano la proprietà e la vita umana. Chiaro? Io credo che chiunque, no, tra l'altro, che uccide una persona dopo anche dei problemi personali etici, io almeno ce ne avrei tantissimi. Quindi, ma non puoi dire a uno: prendi il cellulare e chiama la polizia. Io voglio bene a quella persona lì, a quel tabaccaio, io gli voglio più bene di te. Io voglio che lui non abbia problemi, no, te lo giuro. Tu forse sai così, vuoi fare. Sulla cittadina, io voglio risolverlo veramente il problema. Ma risolvi come? Chiamando la polizia, che magari vengono 20 minuti dopo, che ti hanno stuprato la moglie, ti hanno ammazzato il figlio, o hanno ammazzato anche che ne so, ci hanno ammazzato un tuo parente. Ma ragazzi, ma che chiamare la polizia di che? Se uno ha la pistola, che cosa la prende a fare la pistola? Che cosa ce l'ha a fare con la pistola? Quello dentro casa, che è praticamente la tabaccheria, è come casa sua, ha ammazzato uno che era sull'uscio e stava per uscire. Che ne sai che cosa voleva fare quello? Magari si rivoltava e sparava. Che ne sappiamo? L'arma ce l'aveva o non ce l'aveva? Magari quello c'ha un fucile sotto il giubbotto e non lo sappiamo, no? La zanzara. Esco ora dall'ufficio sulla tangenziale di Madrid e fremo come un pazzo per aspettare la zanzara. Allora, siamo nel giorno in cui un consigliere leghista alla regione Liguria ha detto che se avesse un figlio gay lo brucierebbe nel forno. Lui smentisce, ma ai nostri microfoni una delle testimoni di questo colloquio tra il signore della Lega Nord e alcune associazioni conferma tutto. Abbiamo fatto indagini serratissime oggi. Conferma tutto, ma naturalmente lì è la parola di alcune persone contro quell'altra, non ci sono registrazioni. In Parlamento credo che ci sia una deputata del Partito Democratico a proposito di questa vicenda che ha detto questo. Se il consigliere Paoli pensava di accendere i riflettori su di sé emulando le prodezze verbali del suo segretario nazionale Matteo Salvini, lo ha fatto in un modo pessimo, rievocando i forni crematori dei lager nazisti, lager in cui si stima siano state internate circa 50.000 persone in quanto omosessuali, con tanto di divisa righe col triangolo rosa. Intendeva questo il consigliere De Paoli? Dire che avrebbe fatto come i nazisti? Beh, in realtà poi il forno si è trasformato in una caldaia. Dalla ricostruzione. Però dalla ricostruzione. Certo, è strano avere sentito. Adesso, per carità, sicuramente è vero quello che ha detto la signora anche da noi. Ha sentito queste parole, eccetera. Però prima era il forno e poi la caldaia. Sono due parole completamente diverse. Io non voglio salvare nessuno, per carità, sai quanto. Appunto, che posizione quindi ho su questi argomenti, per cui non è quello il problema. Secondo lei Librandi, la Lega è fuori legge, è un partito potenzialmente fuori di testa? Guardi, io ho degli amici leghisti che sono gay, magari dichiarati. Quindi penso che a parte che la discussione dei diritti di questi giorni, vabbè, lasciamo perdere quello, lasciamola perdere che non è il momento. Io penso che la Lega non ha limiti a cercare di meravigliare i cittadini con dei livelli, cioè, ma secondo lei è fuori legge? No, non è fuori legge, diciamo che il livello è così basso che ormai non li vediamo più, no? Magari andranno anche al potere, cioè. Ma lei che fa? Se va al potere Salvini porta via le sue aziende dall'Italia? Salvini è una persona intelligente, solo dice una serie di stupidaggini dal punto di vista sia economico che dal punto di vista politico. Cioè dice delle stronzate pazzesche. Appena, sì, delle stronzate pazzesche, che appena andrà al potere si renderà conto. Infatti guardate che i candidati sindaci non riescono a esprimere nessuno della Lega, perché nelle città più importanti hanno due presidenti di regione qua, infatti quelle sono delle belle persone sicuramente, Zaia e Maroni votati dai cittadini, Zaia e Maroni persone di grande livello che conosco, che stimo tantissimo però non è ironico, dicendo, No, giuro che non sono ironico assolutamente. Giuro che stimo Zaia e Maroni in maniera importante. Invece Salvini dice un sacco di stronzate. Salvini sta aumentando sempre di più il populismo nella sua Lega, che potrebbe essere invece un partito che di centrodestra. Senta, però io non capisco una cosa, come fa lei a dire, cioè diamoci del tuo, anzi come fai tu Gianfranco a dire, sai, l'altro giorno l'ho incontrato in un ristorante, no? Sì, è vero. L'ho incontrato in un ristorante con una bellissima ragazza. Qui dal ristorante. Ma l'ho già detto l'altro giorno, con una bellissima ragazza al fianco. Spettacolare. Chi è questa qua? È una stata presentata come la fidanzata. Chi se ne frega? In pubblico. Beh, chi se ne frega? Si tratta bene, signor Librandi. Mica. Perché sei geloso. Se mi metto a dire quante ne ho viste con te, allora. Si metta a dirlo, onorevole. Lui è un grande, veramente un grande maschio, diciamo così. Ma anche uomini c'erano? Lo ha beccato anche con qualche maschietto? No, lui è un maschio nel senso che... ma adesso non esageriamo. Casanova ne ho altri. Con le donne, diciamo. Ma io lì in quel momento non ero con nessuno. Chi era con una donna eri tu, non ero io. Spero non di nascosto. Non sei carino di dirlo in diretta. Ufficiale. No, ma infatti lei si è presentato ufficialmente, l'ho potuto dire tranquillamente. Ho capito, ma era in un privato, in un locale. Fidanzata ufficiale. Vabbè, ma no, locale, normale, un ristorante. Allora, voglio capire una cosa però, Librandi. Io dico, come si fa a dire... doveva chiamare la polizia, gli hanno sfondato la tabaccheria, questo signore, il vescovo ha detto ti dirò di più, che se per caso anche questo fosse entrato in casa mia, no? Io posso sparare, io avrei sparato in alto, lui invece di sparargli addosso, secondo me poteva, dato che è una persona che secondo me sa usare le armi, poteva sparare in alto, cioè, poteva sparare, ha sparato per uccidere, dunque ha sparato per uccidere, no, secondo te poteva cercare di non colpirlo, diciamo. Io penso che la vita sia una cosa preziosissima, anche la vita di un delinquente merita rispetto, quindi io sono se del entra parere a casa mia che... non merita rispetto per no, niente che, no, guardi che c'è una legge in Italia che se uno entra in casa e se è armato tu lo puoi, gli puoi, ma come sparare, fai a sapere se è armato? Come fai a sapere se è armato o no? Magari c'è un fucile sotto il giubbotto e non lo sai, come fai a sapere se è armato? Questo sarebbe già stato diverso, ma questo era fuori di casa e stava scappando, quindi il giudice ha deciso su quanto è successo in quella situazione. Io comunque in generale cosa dico? Io dico che bisogna cercare di debellare questo problema della, delinquenza con la testa, con il cervello. Ma in quei momenti, cioè il vescovo di Chioggia, che non è l'ultimo dei leghisti, no? Il vescovo di Chioggia. Vabbè, adesso non ti va bene nemmeno il vescovo di Chioggia. Ha detto: il giudice prende le sue decisioni col cervello, stando tranquillamente seduto nel suo studio, analizzando le carte che ha davanti. Ma dovrebbe pensare che uno aggredito di notte all'improvviso a casa sua non ha il tempo di riflettere, quindi la sua reazione è emotiva, istintiva, non razionale. Non si può far passare il messaggio che bisogna permettere al ladro di fare il suo lavoro e condannare e far sentire in colpa chi difende se stesso e la sua famiglia da un grave pericolo. Forse è il caso che nell'epoca Il vescovo dovrebbe cercare di fare il vescovo, e poi se proprio vogliamo andare nel dettaglio, no, non lo critico affatto, io sono un grande cattolico, profondamente cattolico. Stai criticando il vescovo, dicendo che deve fare il vescovo e deve farsi i cazzi suoi. Ripeto, tu sei un mago, deve farsi i cazzi suoi, perché c'è il giudice che decide, e il giudice è una persona esperta, una persona che sa suo lavoro. Allora adesso te lo dico io, tu non credi nei giudici, non credi nella magistratura. Ah no, in questo caso no. Infatti in questo non caso ti ho visto all'apertura dell'anno giudiziario dove c'era... Passo il tempo a fare cose diverse. Che sono diminuiti i crimini, in un paese civile, Salvini, che lavoro farebbe? In un paese civile, Salvini, che... Sì, ma Salvini che ruolo avrebbe in un paese civile secondo te? Che ruolo avrebbe? Ma Salvini secondo me se diciamo in un paese normale, bene, che potrebbe fare? Per esempio pensiamo nella mia azienda, no? Salvini potrebbe fare il capo reparto, perché lui è un trascinatore, cioè una persona, il direttore, una persona molto capace, no? Il capo reparto persona... nella mia azienda, stupendo, questa devo dire che è bella, il capo reparto nella mia azienda è spettacolare. Ma Matteo è una persona che mi piace tanto. Ma lui dai, su, non essere ipocrita, hai detto che potrebbe fare il capo reparto nella tua azienda. Sì, il capo reparto, però non è che ha detto l'ultimo degli arrivati. Io ho detto anche perché, ho detto anche il direttore, perché lui è una persona che sa trascinare. Sì. Hai detto, dice un sacco di cazzate e potrebbe fare il capo reparto nella mia azienda. Lui dice le cazzate e sa trascinare la gente, sa. Io sono più... Ma il fatto che il giudice sia sotto scorta è colpa di Salvini? Ma diciamo che io credo che Salvini, quando prenderà il potere, nel senso che sarà votato al 50%, al 40%, sì, sarà lui il primo ministro, allora dirà delle cose diverse. Perché vabbè, ma il giudice, è colpa sua che il giudice è sotto scorta o no? A parte che è una giudice, la giudice secondo me ha giudicato con coscienza e con concretezza e con competenza. Quindi noi dobbiamo rispettare i giudici, magari dobbiamo cercare di fare in modo che questo... che gli altri giudici che giudicheranno negli altri gradi ma mandino in galera quelli che sparano, ma dai, su, mandino in galera diano 400.000 euro di risarcimento, dai, su, ma come si fa? 400.000 euro sono tanti, meno male. Dico che bisogna ragionare sui 400.000 euro, bisogna guardare quant'è. Sì, ma è tutto un pacchetto, però non è che va vabbè. Ascolta, dobbiamo eliminare la delinquenza, ma non si elimina la delinquenza, ognuno a casa sua si può difendere come vuole, se entrano dentro casa tua io sparo. Sparo pure. Se entra, l'hai detto. No, io non voglio, tua. Ma chi vuole spara. Ma quelli non sono entrati. Ma, non è... ma come no? Sono entrati dentro il negozio, hanno distrutto un negozio, hanno sfondato un negozio con la macchina. Stavano scappando. Ma che stavano scappando? Erano all'ingresso era questo qua. Poi sì, la perizia stava tornando indietro. Le forze dell'ordine. Noi sì, intanto sei già morto. Noi dobbiamo credere alle forze dell'ordine. Intanto sei già accoppato, dai. E guarda, cioè io credo che tu quando vedi i carabinieri ti senti sereno. Ma quello no? che c'entra? Ma quello è un altro discorso. No, allora, ma se io prendo la pistola, scusami Gianfranco, però scusa un attimo, se io ho la pistola, ho il regolare porto d'armi, che cosa ci faccio con la pistola? Ma la metto nel cassetto? Se entrano in casa tua, tu spari. Spari in alto. Se quello c'ha il fucile e ti spara addosso, che fai? Io ho detto che io sparerei in alto prima, magari un altro gli spara addosso, però... se non entrano in casa e stanno scappando e per di più sono disarmati, non puoi sparargli addosso secondo la legge. Va bene. Poi l'interpretazione, tu vuoi sparare, io non voglio sparare. Va bene, grazie. Grazie Gianfranco, ciao. Io ho conosciuto l'odio quando ho sentito la voce di Parenzo. La zanzara. Ciao Giuseppe, scusa se disturbo. Hai lasciato qua la tua sciarpina, amore. Vientela a riprendere quando vuoi. Ciao coccolo. Che non è una bella cosa. Secondo me lo dovevi anche dire. Comunque non c'è problema, perché io ti sputano davanti a tutti. Ma veramente questa gente che chiama è inquietante. Sarebbe da fare delle verifiche però sulla tua vita notturna. Ma non c'è da fare nessuna verifica, punto... è tutto molto chiaro, tutto molto... Poi per carità, noi sai che lottiamo anche per i tuoi diritti. Quindi ma quali diritti? Sì. Per i tuoi, per i diritti degli omosessuali. Poi uno dice che ce l'ha con i Monsignore e con i Vescovi. La Guardia di Finanza di Bolzano ha arrestato Monsignor Patrizio Benvenuti, alto prelato, 64enne, di origine argentina, accusato di una truffa da 30 milioni di euro. Arrestato, dico, per 30 milioni di euro. Per arrestare un prelato hanno dovuto, cioè, non le prove, cioè avevano le mani con la marmellata di più. 30 milioni di euro ai danni di quasi 300 persone, prevalentemente residenti all'estero e per lo più in età avanzata. Versavano i propri denari al sacerdote destinati alla sua fondazione umanitaria, che finivano però in un articolato meccanismo di riciclaggio tra persone e società estere italiane. Una roba incredibile, dai. Incredibile. Maurizio, provincia di Napoli, vai. Parlo da San Giorgio a Cremano. San Giorgio a Cremano, prego, dica pure da San Giorgio a Cremano. Provincia di Napoli. Provincia bene. Di Napoli, sì. Ecco. Io tenevo un sacco di cose da dire prima, un'oretta fa. Va bene, uguale, le dica adesso. Posso dire solamente un omaggio a Crociani, Parenzo, Forza Napoli, Napoli, Napoli. No, però scusa. Forza Napoli. Va bene, d'accordo, Maurizio, Forza Napoli. Poi no, aggiungi qualcosa, è stato tanto tempo aspettare io volevo fare l'avvocato di Arcangelo Michele, perché veniva dall'Arcangelo del diavolo. No, non ho capito. Guarda bene, vuoi fare... Scusi, professore, non ho capito. L'avvocato di chi, scusa, professore? Io, no, maestro, era l'avvocato del diavolo. Sì. La prima, questa è la seconda volta, no? Sì, sì. Che telefono. Sì. E volevo fare per compensazione l'avvocato dell'Arcangelo Michele. L'avvocato dell'Arcangelo Michele. Da quanto tempo lei è in queste condizioni? Non ho capito. No, volevo sapere da quanto tempo lei si trova in queste condizioni, gentile ascoltatore. Ma mistica. No, no, in generale, in queste condizioni, caro da signore da Napoli. Quando Napoli sta in prima. Sì. Ha segnalato 3 ore, però. Ma questa sua situazione l'ha segnalata al personale sanitario della regione? Sì, tengo la tessera da TSO. No, ecco, ad honorem forse, ad honorem. No, cartesianamente parlando. Vabbè, Maurizio, mi pare che il caso sia abbastanza conclamato, sia abbastanza chiaro. La situazione è tutta chiara. Parlare di cose di 2-3 ore fa. No? Ma dimmi, Maurizio, puoi dire tranquillamente anche se sono passate 2 ore, a parte che non possono essere passate 2 ore perché erano le 6:15. No, un'ora e mezza, certo. Vabbè, allora? E allora mi sono scordato tutto cosa. Beh, ma questo è comprensibile, però. Ogni tanto, giustamente, però. No, giustamente. Che tu ti sia scordato di tutto quello che è successo, non ho il minimo dubbio. No, no, non è che mi sono scordato. Sì, mi sono scordato, certamente. Sì. Mi è rimasto solamente Forza Napoli, Napoli, Napoli. Vabbè, ma questo è da ricovero. Cristian da Bergamo. L'avvocato del diavolo. Sì, l'avvocato del diavolo, sì. Sì. Quando voi parlavate degli avvocati, poi avete parlato di Elton Johnson. Elton John. Elton John, veramente Elton quello. John. Comunque non importa. Elton John, il festival di Sanremo. Sì. E allora? Che c'è da dire? Un angelo. Guardi, le do questo consiglio. Ho i numeri dell'ASL di Napoli. Pronto? Li tengo tutti. No, guardi, glielo do anch'io perché per sicurezza. Vorrei che ASL Napoli Centro. Ma carabinieri, polizia, guardia finanza, comunque si segni il numero dell'ASL di Napoli 081 254 1111 sì, ASL di Napoli. A quest'ora non credo risponda. 00 a maschere Polucenel. Avete fatto un buon carnevale. Grazie, adesso no. Vuole il numero di Auriemma, magari da una mano. Ma che c'entra Auriemma? So, Auriemma carnevale, carnevale, perché lo conosce? Quaresima. Auriemma, lo conosce lei Auriemma? Auriemma, no. Ma ci prendo qua all'albo telefonico. All'albo telefonico. Vabbè. Si segni il numero per Maurizio, l'ASL. Maurizio, arrivederci. Cristian Bergamo, vai! Ciao Cruciani, ciao. Dimmi. Volevo rispondere al signore di prima che ha chiamato dicendo che se avesse un figlio omosessuale la cosa peggiore è che insomma lo farebbe accoppiare con Parenzo, ho capito bene? Sì, tutto? Assolutamente, okay. sì, assolutamente. Io invece sì. Da omosessuale felice, perché dobbiamo dirlo che gli omosessuali sono anche persone felici, sì. Se Parenzo in un'altra... Non da mettere nel forno, crematorio... No, o nella caldaia, come sostiene, il nostro amico, no, leghista. Però volevo dire, ma e sono serio, che se Parenzo, se David in un'altra vita, in una prossima vita... No, ma anche adesso, perché in un'altra vita? Ma anche adesso. Anche adesso, perché in un'altra vita chissà che succede. Parenzo è un bel ometto, ogni tanto dice delle stronzate che vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, ma quello lo diciamo tutti. È opinabile. Opinabile. Però guarda, mi sei simpaticissimo perché ogni tanto dici delle cavolate, ogni tanto dici delle cose. E quindi io, insomma, me lo farei più che volentieri. Beh, qui ecco, siamo guardi, veramente al top. Allora, Cristian, tu ti faresti Parenzo? Mi scuso con lei. Ma tu come lo vedi? Passivo o attivo, Parenzo? Ho altri gusti, diciamo, però... No, sa, no, no, ma io... Come lo vedi? In che ruolo lo vedi nel rapporto omosessuale? Questa è buona, Beh, senza scendere nei particolari... No, scendendo ecco, nei particolari, perché senza scendere? Ma guarda, sia attivo che passivo, va benissimo. Mi dispiace deludere le sue, come dire, aspettative, caro ascoltatore, però io sono orgogliosamente eterosessuale. Quando dico orgogliosamente non intendo dire che ho qualcosa contro gli omosessuali, ma sono proprio, come dire, indissolubilmente legato all'altra azienda. Però caro Cristian, io credo indissolubilmente legato all'altra azienda, quindi ma questo lo so, però insomma, ecco, io ci sono rimasto male quando ti è stato detto ringrazio la sua solidarietà. No Cristian, io però sono abbastanza solidale con te, perché secondo me Parenzo da quel punto di vista ha grandi potenzialità, perché in realtà piace comunque anche tu insomma. Amico mio, ma tu te faresti tutti, però diciamo la verità, cioè, no, tutti no, no però amico mio, ti faresti un sacco di gente. Io Parenzo, bisogna scegliere tra me e Parenzo, da quel punto di vista c'è una certa differenza, ma io dico in generale, cioè, per fortuna attraiamo veramente persone diverse, ma pubblici diversi abbiamo, sì, per fortuna abbiamo pubblici diversi, no, non dico, non sto dando giudizi, però sì, è così, sì, e per cui Cristian, se tu dici mi farei sia Cruciani che Parenzo, siamo al dramma assoluto, veramente sei onnivoro da questo punto di vista, No, beh, però tra te e Parenzo sceglierei Parenzo. Oh, ecco, siamo arrivati alla decisione. Questo è buono, no? È la verità. Devo questo non poterla accontentare. Allora, Cristian da Bergamo dice: si farebbe volentieri Parenzo in qualsiasi ruolo, attivo, passivo. Dopo questa notizia stanno fermando le rotative della Repubblica, mi hanno avvisato. Il quotidiano La Repubblica, diretto oggi dal signor Calabresi. Ci racconta tutto della sua esclusione dall'Isola dei Famosi, forse per colpa nostra, ma in realtà non è per colpa nostra, forse per colpa del bigottismo di qualcuno, caro Parenzo, io direi, senza fare nomi e cognomi, che cosa che invece farà la nostra amica Efe Ball. Buonasera. Buonasera a tutti. Come stai? Bene. Io sto bene, sopravvivo ogni giorno e mi meraviglio con le altre cose in questo paese. Sì, beh, certo. È incredibile che una come me sia esclusa da un programma con una balla, tra l'altro, che avevo parlato di 100 preservativi nel tuo programma. E invece non è quello il motivo? Invece uscite fuori che la senatrice del PD, Stefania Pezzopane, e il suo gigolò, o piuttosto toy boy, diciamo così, Simona Ciocca. Sì, Coccia. Sì. Allora? E praticamente lei ha pagato, quanto ho capito, o anche che no, se non ha pagato, attenzione. ha fatto qualche favore, qualche gioco, non lo so sinceramente cosa abbia fatto. Per fare cosa? Ha grande intrigo qua. Cambiare il mio posto, che sono così ironica, così bella, così simpatica, avevo pensato di fare lezioni di 3 cingoni mattina davanti alle telecamere per intrigare, per farmi vedere da milioni di italiani. Sì. Hanno scambiato il mio posto con questo ragazzo che, con tutto il rispetto, sarà anche un ragazzo carino. Io non ho mai conosciuto, non mi sono mai interessata, devo dire la verità. Signor Simone Coccia. Ho visto diverse volte in televisione e mi sono sempre meravigliato. Ho detto, ma questo scopa questa? Mamma mia, ho detto, che gusto. Comunque, ma scusami, tu quando li vedi non ti chiedi. Effettivamente. Uno è alto 1,90, pesa 100 kg, l'altro è alta 1,50, pesa 40. Cioè, uno dice, ma come non fate? È per esempio, che posizione fate? Missionaria, piuttosto spegni candela, pecorina, smorza, cosa cazzo dice. Fate in letto? Sì. Insomma, secondo me, dopo queste cose che dico, non che non mi fanno più andare all'Isola dei Famosi, ma non mi fanno più uscire in televisione, ma va bene così. Però scusa, non ho capito, secondo te, aspetta, adesso al di là delle posizioni tra la signora Pezzopane, senatrice della Repubblica, e il signor Simone Coccia, suo compagno, Coccia. Entrambi abruzzesi, al di là di questo, veramente pensi che ci sia il grande, io non sapevo, ma è ufficiale che è entrato all'Isola dei Famosi questo qua o no? Era in circa il 16 o 17 di dicembre che sono loro che mi hanno chiamato e mi hanno detto che cosa avrei pensato per andare all'Isola dei Famosi. Era io tutto gli ho fatto. Risposto subito, avevo detto, io potrei venire per 2 settimane perché ho i miei cani e mia mamma, non posso più di 2 settimane. Gli ho anche detto, quando abbiamo fatto il colloquio, ho detto, per 2 settimane non mi dovete neanche pagare. Vengo tutto gratis. Beh, gratis. Però soltanto 2 settimane. Andavi 2 settimane gratis, non ci credo, Efe, dai, su. Sì, ma io non ho mai chiesto soldi per andare in televisione, Cruciani. Sappi, no, all'isola pagano. Questo ragazzo qua, il toy boy della senatrice Pezzopane, probabilmente prende gettone di partecipazione, quelle che sia, insomma, per andare nei programmi televisivi. Io non ho mai chiesto soldi. Vabbè, ma l'Isola dei Famosi è un'altra cosa, però là ci sono i budget. Comunque, poi dopo abbiamo fatto altri colloqui, io c'ero sempre, e va bene. Poi ieri mi chiamano e mi dicono alle 11 da noi, vabbè, io mi vesto normalmente, scarpe di sport, un giubbotto, vado lì alle 11:15, sì. Alle fine mi dicono, guarda, ci dispiace veramente tantissimo, siamo insomma mortificati, così cosa? Non sì. ci sei, io gli ho dato indietro, restituito indietro il contratto che non avevo ancora firmato. Sì. E... ma nel contratto che c'era? Okay. Quanti soldi c'erano nel contratto, scusa? Vabbè, dai, ormai è fatta, dimmelo. 100.000. Allora, mi avrebbero pagato all'isola ogni sì. settimana 2.500 euro, se non che, se non è fuori dall'isola per andare in studio, 1.500 euro. Ma poi 2.500 euro a settimana? 2.500 euro a settimana? A settimana. Ma dipende quante settimane sono. Ma che cazzo è 2.500 euro a settimana? Ma che è? Ma quante settimane ma manco sono? Agli operai della cioè, 2.500 a settimana, ma tanto, vuol dire, ma una partecipazione... Vuol dire già 10.000 euro a settimana. Ma 10.000 euro al mese, scusami. Ma, 10.000 è, una, al ma mese. È una roba ridicola. Cioè, allora, rispetto per ai il mondo televisivo, probabilmente una roba ridicola. Per me non era una roba ridicola. Io, in teoria, dovevo. Se vincevo, pensiamo così, il premio era 100.000 euro, la metà va a beneficenza. No, ma tanto io non potevi vincere, se vai fuori... Avrei dato tutto in beneficenza. Scusa, ma se come facevi a vincere se era previsto che uscivi dopo 2 settimane? Scusami. No, non era... Allora, loro non hanno accettato questo mio patto di uscire dopo 2 settimane, tantomeno che sono stati molto sinceri, molto diretta, mi hanno detto, non dipende da noi, almeno mi hanno fatto capire che sia così, non dipende da noi... Dipende tutto dal pubblico e viceversa, ma io non ero molto convinta con questa pubblica e tutto ciò, perché secondo me è tutta una messa in scena. In effetti, oggi quando sento questo signore al telefono che mi chiama, mi dice, ma Efe, hai letto queste notizie che sono uscite in internet che probabilmente la senatrice Pezzopane ha pagato. Ma non ha pagato, adesso... avrà pagato, però ha fatto qualche cosa, sai, la politica arriva... Ma non ho capito, ma veramente, famosi, veramente capisci? il fidanzato... Non gli basta le case gratis, non gli basta... corruzione, non gli basta aiuto alla mafia, non gli basta mille, non gli adesso basta adesso, perché una è stata esclusa dall'isola, che cose fa... che fanno e fanno anche questi intrighi. Beh, ma magari, magari ancora scusami, ma magari ma signora Ball, scusi, signora Ball, ma mi perdoni, ecco. Lei, perché siccome lei è stata esclusa, che dice che c'è la politica che dietro, non ho voluto andare io, signora, scusi, io non ho mai guardato l'isola. Ma chi è che ti ha chiamato? Chi è che ti ha chiamato? Si guardano i programmi di politica e di economia. In vabbè, io non parlo dell'isola dei famosi, io quando anche voi mi chiamate parlo dell'economia. Se beh, tu chiedi al Toyboy di Stefania del Pezzopane, sì, quanto disoccupazione giovanile c'è in questo paese, non credo che ti risponderà. Ma non è importante però per andare all'isola dei famosi. Ma io mi importo con questa cosa qua, non mi interessa. Però scusami, che ne sai che lui... avevo anche detto. Che ne sai che lui è stato ingaggiato dall'isola, mica ufficiale? Mica ufficiale, quanto ho sentito, ieri c'era anche lui dopo di me a parlare. In Magnolia. Ma scusa, ma che vuoi fare? Una manifestazione davanti a Magnolia, tu? Mi voglio. Che è la casa che produce. Ho già trovato il vestito fatto come un preservativo enorme. Tanto. Vado davanti Tito Speri il 7 di marzo, quando comincerà questo farabutto programma. Farabutto. Che non ho capito sinceramente chi entra e chi esce, se qualcuno paga o se qualcuno scopa in cambio di andare in isola. Potevi farlo anche spero. Tu, eh? Tra l'altro, il bello. Potevi farlo anche tu. Portare... Allora, scusami, io perché non ti sei fatta qualcuno? Avrei portato 100 preservativi, ma nel contratto si chiede che poi e devi anzi portare preservativi, quindi qualcuno scopa di sicuro. Cioè, come nel contratto è previsto questo? Nel contratto. C'è accettato, mentre nel contratto non puoi portare un specchio, nel contratto si crede che puoi portare preservativi. Ma non ci credo, cioè nel devi crederci. Nel contratto c'è, quindi capisci? C'è una cosa talmente quindi qualcuno sicuramente. Ma perché potevi fare anche tu? Potevi fare male. Potevo fare anche io, ovvio che dovevo essere. No, potevi portarti. Potevo scopare con alberi o con pesci, capisci? Potevi portare anche tu, dico, potevi farti qualcuno anche tu della produzione. No, che ho ne capito, so. Però doveva essere un po' di complicità, sai? Normalmente quelle cose lì si fanno in due. Comunque non capisco perché hanno reagito, non voglio crederci, io capirei. Vabbè. Io capirei Simone Ventura che ha fatto capricci, una grande donna, ok. Ma il resto di questa cassa. Ah, tu dici che non hanno accettato butto, la Simona Ventura butto, non ti voleva? No, non credo che ha fatto problemi. E chi è stato allora? La Pezzopane? Ma ci faremo una ragione che la signora Ball non c'è lì, mamma mia. Io sono una che si spoglia davanti al Corriere, sono una che va in scala, in posto A, fila A, posto 3, si butta dove c'è l'orchestra sì, ma, per scusi, aprire signora. Un manifesto. Io sono una grandissima persona, da sola faccio. Io sono. Ho capito, non è che basta spogliarsi davanti al Corriere della Sera, però scusi. Ma è incredibile. Sì, ma perché scusi, per me sarà numero uno, beh, figurati, hanno fatto male. Tante persone sono il numero uno, con tutto il rispetto. Io sono la signora Ball, mi perdoni. Comunque, guarda, per il signore, se mai hanno scambiato il mio posto con questo signor Ciocca, Coccia, sì, Toy Boy, un semplice gigolò, un gigolò, gigolò. Scusami, però... abbiamo appena detto, come li puoi immaginare a letto, chi scopa chi, come scopa, cosa fa, dai, ridi, vuoi dire che accetti anche tu che la situazione. Aspetta, ferma lì, dormire tutti, ferma lì, andate a vedere la signora senatrice, ma sì, abbiamo visto in internet e la foto del suo Toboy e ditemi in che posizione si scopa. Beh, ma sì, ma quella è un'altra cosa. Ferma. Ma quella è un'altra, vabbè. Ferma un attimo. Che non ce la faccio più, non vi sopporto, è un programma brutto. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. La Zanzara. Cruci, sono tristissima. Devo ammettere che ascoltarti mi eccita tantissimo, soprattutto quando fai lo stronzo, ma ultimamente stai perdendo un sacco di punti. Sarà che prima dichiari che provi piacere a infilarti le mani nel culo quando fai il bidet, poi ci fai ascoltare tutti i messaggi dei tuoi amichetti e ultimamente non parli nemmeno più di figa. Ti prego, Cruciani, torna fra noi. Ma non mi pare questo, questo non credo. Scusa, questo ma chi non è sta gente? Non lo so, una gente che chiama. Ma è gente che chiama. Cioè, io voglio dire, uno è abituato nei giornali all'esistenza delle cosiddette lettere al direttore, no? Nella carta stampata. Ma che c'entra? Questi sono messaggi WhatsApp alla Zanzara. Hanno una caratteristica particolare, cioè spesso hanno contenuti molto poi diversi. Poi amichette, ricatti, l'amichetto. Guarda che è una roba incredibile. Una volgarità inaudita. Allora, concludiamo con F. Ball in questo modo, con la signora Ball. Ci ha raccontato tutti i dettagli della sua esclusione dall'isola dei famosi, forse per colpa di chi se ne frega, però a un certo punto. Grazie, anche io penso lo stesso, per questo programma penso veramente che chi se ne frega, ma qui non parliamo di Isola dei Famosi, qui parliamo di un grande scandalo che era per un programma che dovrebbe essere Watergate la politica fa fuori un programma per la famiglia, per morale, insomma ci sarà famiglia. Un gigolò e hanno escluso una trans prostituta, hanno messo un gigolò della signora senatrice Stefania lei capisce che escludere una usare 100 preservativi questo ragazzo va a letto con una donna che mette della sua altezza, ma cosa capisci? Dice? E questo è il programma Isola ma dei che è una 2016. Guerra tra cinghiali questa qui. Questo ma anche... è l'isola dei famosi del 2016. Ma lei signora capisce prostitute trans che succhiavano in cazzo ma scusi signora mia e hanno signora... preso un gigolò che va a letto con signora, una donna io che capisco molto il suo talento. Io però volevo concludere in un altro modo ma io capisco il signore di Magnolia capisco il signore di Magnolia che se ne frega di Magnolia io capisco il signore di Magnolia che di fronte alla signora dice lei cosa sa fare signora Ball. Ma io sa dai ragazzi su, ma che c'entra ma allora perché l'hanno chiamata all'inizio dai, scusa troppo perbenista scusa bisogna ma dire che delle perbenista cose come ma ho capito ma sì, su un po' di coraggio esatto brava c'è una grandissima differenza quello tu sicuro. Vivi in quel mondo lì io invece non faccio né non lavoro né in radio né in televisione quindi posso permettermi di dire quello che voglio perché il mio lavoro è di fare la prostituta ogni giorno questo mi sembra ma scusa cose, ma chi te lo faceva fare tu guadagnavi molto di più di 2500 euro a settimana. Anche loro me l'hanno detto che possono permettersi di pagarmi solo queste cifre nonostante che anche loro erano sicuri che io lavoravo e guadagnavo di più molto di più se facevi la prostituta se continui a fare la prostituta così. No però comunque era l'unico modo in cui potevo forse in qualche modo far vedere al mondo e cambiare mestiere non c'era vabbè. Bisogno di essere ipocriti che anche una prostituta in qualche modo poteva fare una reality vabbè. Che andrà in onda in prime time invece loro hanno senti un'ultima cosa i tuoi amici leghisti ne sfornano uno al giorno adesso parlano pure di gay da mettere nel forno bruciare i figli gay nel forno ma veramente io con quelli che ho conosciuto sono sempre entrata nel letto non sono mai entrata nel forno Speriamo. E se tutti quelli che mi avevano mandato le loro foto nudo, piuttosto leghisti. Anche deputati? Spero che non vanno in forno, perché così ma anche deputati? Anche deputati o no? Un partito che è svenito per nulla, è scomparso. Ma anche deputati? Non ne voglio parlare di queste cose. Beh, per me la Lega, cioè, per me in Lega c'è soltanto una persona che mi si chiama Salvini, amico, vabbè. Che si chiama Salvini. Va bene, ciao caro, ciao. Allora, Vincenzo, provincia di Forlì. Ragazzi, ovviamente è inutile che ve lo dico, le cose che ha detto la signora Efe Ball su Simone Coccia, la senatrice Pezzopane, sono cazzi suoi, cioè non è che io non so nulla di questa storia, non c'è bisogno di aggiungere questa frase. Vabbè, dai, Vincenzo, provincia di Forlì, vai. Singolare, buonasera, però, Cristiani, buonasera Parenzo. Volevo rispondere a quel parlamentare che parlava delle forze dell'ordine che in 3 minuti vengono a casa. Sa cosa mi è successo a me una decina di anni fa? Mi sono venuti i ladri, no? Io per fortuna che eravamo in casa, hanno cercato di trapanare la porta per entrare dentro, e allora io li ho fatti scappare gridando al ladro, al ladro, al ladro. Ho chiamato i carabinieri, sa cosa mi hanno risposto? Dice, li ha visti? No, dice, allora cosa veniamo a fare? Queste sono le nostre forze dell'ordine. No, beh, non sono tutti così, no, i poliziotti e i carabinieri. Non sono tutti così, però... Ma no, ma la cosa ridicola è quella di pensare che di fronte a una minaccia reale, come quella di Correzzola, non mi ricordo esattamente qual è quel paese lì, una minaccia reale, cioè un gruppo di persone che ti sfondano il tabaccaio, no? Ti sfondano la tabaccheria. Entrano dentro con una specie di ariete, sì. Sfondano lì, la tua casa è sopra, a un certo punto che cosa fai? Tu devi alzare il telefono e chiamare la polizia. Sì, certo, puoi anche alzare il telefono e chiamare la polizia. Nel a me frattempo... mi stavano trapanando la porta per venire dentro. No, ma io dico una cosa, se tu devi limitarti solamente a chiamare la polizia, ma che diavolo l'hai presa a fare il porto d'armi? Infatti, con la pistola, la pistola, allora, il porto d'armi ce l'hai per usare la pistola, non è che si spara, no, così come nei film di Tarantino. Quello adesso è sceso, ha visto della gente dentro, sì, ragazzi, casa sua. Non siamo nel film di Tarantino, siccome non siamo nel film di Tarantino, dove uno bam, gli spara la nuca, non funziona così. Ma tu ce l'hai la pistola o no? Ce l'hai la pistola o no? No, io non ho neanche la pistola, anche se ho fatto la legione straniera e non ho paura di quella gente. Hai fatto la legione straniera? Sì, ho fatto 30 mesi di legione straniera. E dove l'hai fatta? L'ho fatta in Algeria. In Algeria 30 mesi. Quindi con 30 Le Pen, mesi in Algeria, vecchio Le Pen. E sono riuscito a scappare. E perché sei scappato dalla legione straniera? Sono scappato perché era dura, perché poi perdemmo l'Algeria, siamo stati trasferiti in Corsica, dalla Corsica sono riuscito a scappare. Cioè, perché teoricamente non si può scappare dalla legione straniera. No, adesso sono è una cosa di 50 anni fa, Io avevo 18 anni. 18 anni sei scappato dalla legione. 18 anni sono scappato dalla legione straniera. E quanta gente la barai storia? Quanta gente hai ammazzato? No, io non lo so, siamo andati in operazione, io ero carrista. Vabbè, ma quanta gente hai ammazzato? Ho sparato parecchio, però che abbia ammazzato non lo so. Ma non lo sai. Ho sparato nelle tende, nelle cose, però non lo so. Abbia ammazzato qualcuno. Sicuramente ha ammazzato qualcuno. Può darsi anche. Va bene, ciao Vincenzo, ciao. Alessandro, Milano, Alessandro. Sì, buonasera a tutti. Dimmi. Volevo dire, come fa la gente a dire... Poverino, gli hanno sparato al ladro. Tu stai entrando nella mia proprietà, una cosa che io mi sono sudato tutta la vita per mettere via qualcosa. Tu entri noa di notte, io devo sparare in aria? Ma io ti sparo in fronte, pezzo di merda. Come fa la gente a dire così? Ha ragione tu. Dillo a Parenzo. Dillo a Parenzo. Cioè, no, ma cosa dire? Non ho capito. Io ho la terza media. Ma non c'entra che cosa lei, ma non c'entra niente. Io mi alzo alle 5 di mattina, se mi entro in casa e voglio rubare quei 4 soldi che riesco a mettere da parte, ti sparo in fronte. è normale che sia così. No, cosa è normale? Stai alimentando una cosa che non è normale per niente. Ci siamo permessi, Librandi ed io e altri, ci siamo permessi semplicemente di dire che esistono già le leggi a tutela della proprietà. Ma questo sta dicendo un'altra cosa. Ma no, ma sta dicendo perché è titillato come quando tu ti ho detto già, tu titilli le palle del leone. Ma lo lasci parlare invece di dire stronzate. Lascia parlare Alessandro. Titilli le palle del leone. Carabinieri, chi cazzo chiami carabinieri? Il tempo che chiami carabinieri arrivano, quelli sono scappati. Ma nessuno ha detto che uno non si deve difendere, ma nessuno ha detto che lei non si deve difendere. Si dice semplicemente, come prevede la legge, che se quel ladro scappa e lei lo insegue e gli spara per le scale, lì può commettere un reato. Solo se sei dentro casa mia, io ti sparo e ho diritto a non essere processato e condannato. Quello era nel caso del tabaccaio che si chiama Birolo, il tabaccaio, quello era praticamente sull'uscio di casa. Si sta discutendo in maniera anche ridicola della posizione del morto, la posizione del morto che era girato, dunque in quel momento non minacciava Tarantino, era dentro proprio la tabaccheria. Di che parliamo? Chiesto Tarantino da dove? Pezzi di merda. Da dove chiama questo qui? Da Milano, Tarantino da Milano. Quentin Tarantino da Milano. Ma lascia perdere, non chiamare Quentin. Ma non è Quentin Tarantino, è una cosa normalissima, dai. Da che mondo è mondo? Ragazzi, allora, in provincia di Grosseto hanno fermato, e credo che sia ancora sotto fermo, se non è stato addirittura arrestato, e probabilmente sarà accusato di tentato omicidio, un signore, un tale Bruno Poeti, che abbraccio fortissimo, un ex agente, 64 anni, che ha sparato ai ladri che erano entrati nella sua proprietà e stavano per rubargli la macchina. Ha sparato e ha ferito un signore, non l'ha ammazzato, è stato arrestato e probabilmente verrà accusato di tentato omicidio. Il signore che è stato ferito, un tale Nicolai Farkas, 39 anni, una fedina penale lunghissima per diversi furti. Ora io dico una cosa, entrano dentro la tua proprietà, tentano di rubare la macchina, tu scendi, spari, ferisci uno e finisci nei guai tu. Ma ti rendi conto o no? Cioè ti rendi conto o no? Che cosa vuol dire questo? Giovanni da Novara, dai, Giovanni. Sai le dinamiche di quella roba? Giovanni da Novara, dai. Per te comunque si deve sparare. No, non ti dico che si deve sparare. Sì, no, questo tu sostieni, no, si deve sparare. Uno se la sente. Quindi di sparare. Che discussione c'è? Che discussione? Ma se se la sente è evidente. Quindi che discussione c'è? Per te quando uno spara dentro casa, basta, non c'è neanche il processo. Assolutamente. Nessun processo. Nulla, questa nulla. È la sentenza. Se spari dentro casa puoi fare il cazzo che vuoi. Trasforma l'Italia. Se entri dentro casa, sei alla mia mercé. Io di te posso fare quello che voglio. Dentro casa mia, nella mia proprietà, anche. Ma no, ma che c'entra? Lascia perdere queste puttanate palpe. Dai, ragazzi, su Giovanni, sto dicendo una cosa profondamente liberale. Film, Giovanni da Novara, sì. E io in parte difendo Parenzo. Buonasera a tutti. Dimmi. Prima cosa, volevo aprire una piccola parentesi del discorso di 20 minuti di Efebal. Ragazzi, è più interessante il traffico, cioè quel gran cazzo che se ne frega di Efebal. Vabbè, amico mio, non ti piace Efebal? Non ti piace Efebal? Ho capito. Non è che possiamo parlare un'ora di armi. 2000, c'è ragione. C'è già la musichetta, guarda, via, chiudiamo tutto, 2010, arrivederci. 2010 e mi sono trovato i ladri in casa, sì. Faccia a faccia, diviso solo ed esclusivamente una vetrata. Io al porto d'armi, tenevo le armi in casa e tutto quanto. Dopo quello spiacevole accaduto ho deciso di eliminare le armi in casa, sì. Perché sono pericolose, ragazzi. E va bene, tu hai deciso questo, sono un appassionato. Giovanni, ma io non ti sto dicendo che sbagli, dicendo che è una tua decisione, ma non puoi criticare quella degli altri, però. No, ma infatti io non la sto criticando, io sto dicendo che Librandi, secondo me, ha detto una cosa giustissima in questo. Lo Stato deve anche tutelare il cittadino. Ma non può tutelare metro per metro, no, ma di che parlate? Dai, su. Attenzione, caro mio. Allora, in quel momento ti sale addosso un'adrenalina che io auguro a nessuno che non succeda mai. Normale. E puoi fare cose che non devono succedere. Io ho chiamato la polizia, i carabinieri, che in 3 minuti di tempo sono arrivati. Il tipo intanto è scappato, l'ho visto scappare, ho provato a sparare Non hai sparato. Va bene, ma tu hai reagito in questo modo. Un altro, dentro la sua proprietà. Attenzione, non sto discutendo di quello. Tu puoi anche aver ragione. E allora? Io posso essere anche d'accordo a ammazzare una persona. Ma cosa c'è dopo? Lo Stato è lì che deve tutelare anche il suo cittadino. Dopo che cosa c'è? Il processo, purtroppo, eccetera, eccetera. Il processo, appunto, una vita rovinata. Una vita ho capito, uno si assume la responsabilità di quello che fa, eh. Per me il processo, infatti, non ci dovrebbe essere. Per concludere, Nicola da Cuneo, velocemente, Nicola, che c'è? Sì, buonasera Bruciani, buonasera. Dimmi, veloce, vai. Allora, prima di tutto volevo rispondere alla sodomia di un'ora fa, cioè? Dicendogli che, visto che si è dichiarato cattolico, che per la religione cattolica è male anche la sodomia fra maschio e femmina.